Signore e signori, benvenuti nella seconda stagione di Morti di Bestemmie! Sigla! Ma senti il telefonino con lo silenzio, se no non c'è fatto. La sigla. Però potrebbe funzionare. E bentornati dopo una pausa estiva di pochissimi giorni, eccoci qui agli albori di quest'estate che sta finendo con la seconda stagione, la prima puntata della seconda stagione di Morti di Bestemmie. Io mi presento, sono Alex G e qui con me ci sono... Io sono Marco da quel luogo vicino Montredonda, a meno che nessuno lo sa quale sia, non lo diciamo. Ma scusa, non dovevamo essere Simone. Io ho sentito solo il Davidson, nome. Ma io sono Marco Henry Davidson. Io sono molto Marco, ok. Marco. E lui si è detto che è Alex G. Alex G. Sento gente che ride qui. Cioè. Niente, ovviamente è arrivata la mia moglie. Che sta morendo. Che sta morendo, sì. Esatto. E praticamente, siccome non mi caga mai, però quando sto registrando i podcast viene a disturbarmi, a fare casino. È giusto. No, anche dentro lo studio. Ma diciamo tra l'altro che Morti di Bestemmie, in questo caso, voi non avete potuto sentire la pre-registrazione, che insomma ne sono partite tante di bestemmie, perché siamo con le pezze al culo qua. Siamo come al solito con le pezze al culo grazie a Skype, però in realtà non lo sappiamo. Stavolta credo che la colpa sia dell'aggiornamento del sistema operativo a Sierra, macOS Sierra, e l'utilizzo di Loopback, che in qualche modo mette dei driver audio che neanche io so come, per cui dopo 10 secondi che abbiamo acceso Skype fa proprio dicendo vaffanculo. Allora insomma, praticamente io sto registrando usando il telefono, che però sta funzionando bene. Per cui sì, la bolletta di 3 sarà bella salatina. Per ora sì, insomma, avresti voluto usare Skype dal telefono usando la WiFi. Ma io sono la WiFi. Potrebbe anche essere che è la WiFi il problema, per cui per adesso va bene così, tanto una basetta con ancora 10 GB per questo mese. Okay, quindi questo, state tranquilli per le prossime dirette, soprattutto di Summer Radio. Ma a questo punto diamo anche riferimenti alla nostra trasmissione e salutiamo gli amici di Runtime Radio, perché questo da podcast è diventata trasmissione radiofonica, diciamo, è cambiato tutto. Sì, infatti io mi sento molto radiofonico in questo momento, e quando ammazzo di bestemmie la gente gli dico: lei non sa chi sono io. Non lo so neanche io, perché dipende dalla puntata, ma lei non lo sa. Esatto, infatti è Runtime, poi quindi runtime. Un po' corri il tempo. Va bene. E allora i riferimenti sono: cercate Morti di Bestemmie su Facebook, c'è la pagina, oppure Morti di Bestemmie 1 su Twitter. Ma secondo me è perché volevamo scrivere Morti di Bestemmie punto esclamativo 1 punto esclamativo, cosa è scappata male, è stato Twitter che me l'ha imposto, ha detto così deve essere, evidentemente non mi piaceva proprio il termine. E poi non so se ci sono altri riferimenti, Alex, perché sai, sono passato talmente tanto tempo che nel frattempo ci sono tanto loro chiacchierano. Allora, sì, no, perché appunto mia moglie mi chiedeva se andava al wifi. No, gli ultimi riferimenti, cercate il canale su Telegram di Morti di Bestemmie, telegram.me/mortidibestemmie, e soprattutto per tutti i miei fans che ascoltavano MDB Summer Radio. MDB Summer Radio è diventata dalla puntata scorsa uno spin-off, per cui non è più in questo feed, e cercatevi il feed cercando appunto MDB Summer Radio con Summer con la H finale sui vostri aggregatori di podcast, cioè col programmino che ascoltate i podcast, e lo troverete bello bello allegro. Vi faccio anzi una però scusa Alex, però non è più Summer. No, ma è sempre Samma, perché l'estate è dentro di noi, anche se l'inverno sta arrivando. Esatto, io la chiamerei più Summa Radio. Summa Radio. Era anche Zumba. Che Morti di Bestemmie è il programma con più spin-off in assoluto. Assolutamente, abbiamo talmente tanti spin-off che sono dentro di noi. Esatto. E poi dopo escono anche fuori. Questi inverno potrebbero nascere nuovi spin-off a seconda di quello che vediamo in televisione o quello che ascoltiamo alla radio. Quindi insomma, radio, ricordate, runtimeradio.it. E questa che è una puntata speciale, perché è la puntata praticamente di esordio della seconda stagione di Morti di Bestemmie, ma soprattutto è la puntata che determina poi anche la fortuna che ha avuto Alex, perché Alex, voi dovete sapere, che si è sposato, è andato in viaggio di nozze, ma dove è andato? È andato negli Stati Uniti ed è tornato. Non è stato ucciso da una baby gang, esatto, è incredibile, da un poliziotto, negro, esatto, quello che succede qualsiasi cosa, invece no. Ma la cosa però, bella è... quando hanno visto la mia minchia hanno pensato che ero un negro, esatto, il bravo proprio quello, e qui vabbè, devo farla cagare, sì, no. Esatto. Però la cosa bella è che Alex ci ha avuto una grande fortuna, quella di essere stato in America, cosa che probabilmente da novembre poi non farà più, non potremmo più fare nessuno, perché sarà l'apocalisse, perché che vince Trump o che vince Hillary, secondo me apocalisse tutto spiano. Comunque, prima puntata dedicata agli Stati Uniti dell'anno scorso e anche quest'anno, perché l'anno scorso c'erano gli sodomiti, che c'erano, è no, c'erano i redneck, comunque roba americana. Ma tu dai i redneck, li hai visti i redneck? Allora, ricordati sti cazzo di redneck. Le mie tappe erano in grandi città o nei parchi naturali, però ho preso l'auto a San Francisco, ho fatto un giro a San Francisco, Los Angeles, poi la Death Valley, Las Vegas, i parchi naturali, sono tornato a Las Vegas. E nel giro tra le grandi città, soprattutto in Arizona, ho visto questi posti particolarmente scatafasciosi, cioè le Roulotteville, le città, quelle che proprio di provincia. Pensate che in una parte dell'autostrada tra la California e lo Utah c'era un cartellone pubblicitario enorme con una sorta, praticamente c'era un disegnino con una scimmia, uno scimpanzé e un uomo. È un cerchio barrato sopra, come dicendo, la scritta era: l'evoluzione non esiste, esiste solo la creazione, punto esclamativo. Telefonate alla chiesa locale. Bellissimi. Sì, sì. Telefonate alla chiesa locale, c'era anche il numero di telefono. Purtroppo non ho fatto tempo a fotografarlo perché stavo guidando, però è stato un momento tropico. In un altro posto in Arizona invece ho beccato un'automobile che aveva scritto proprio con lo spray sulla fiancata: dobbiamo uccidere Hillary Clinton. Così, se il tipo si era pitturato la propria automobile così e la parcheggiava lì in tranquillo, cioè, come dire, bisogna votare Trump. Infatti c'era un po' di adesivi su Vote Trump. Perché poi ricordiamo una cosa importante, poi adesso magari inizierà il tuo fantastico racconto, che noi poi ovviamente inseriremo le nostre battute così a casaccio, oppure insulteremo gente così a tutto spiano, che in realtà, voglio dire, l'America sono le grandi agglomerazioni, quindi le città, e poi c'è tutto il resto, cioè c'è la frontiera, che è praticamente è questo mondo selvaggio fatto da pistoleri, da bigotti pistoleri. Ma sai, io non è le mogli, insomma, non è che ne abbia visti tanti, ne ho visto qualcuno, ed effettivamente cioè passi da delle metropoli allucinanti, stupende, bellissime, modernissime, che ti sembrano sicure, a dei posti che sono veramente, dici, vabbè, cioè posti strani. Però devi andartene a cercare, devo dire la verità, non è che proprio, cioè, nel senso, da turista è già più difficile. La periferia di Los Angeles è strano, cioè, nel senso, ci sono dei posti in cui non, tipo, sono andato a fare benzina in America è un po' complicato, perché o hai la carta di credito e ti ricordi il PIN, solo che qui in Italia non lo usiamo mai, oppure praticamente non puoi usare il bancomat per fare la benzina, per cui devi entrare dentro, devi dirgli quanti soldi vuoi mettere, a questo punto gli dai la carta di credito, i soldi e lui ti abilita la pompa di benzina. E siamo andati a Los Angeles a fare questa cosa qua. Una sera non sono riuscito a fare benzina perché c'erano due ragazzi che parlavano solo spagnolo, di origine messicana ovviamente, ma parlavano solo spagnolo, non capivano l'inglese, che gli dice: cioè, ti do $20, mettimi $20 di benzina in macchina. Un cazzo, è stato, per cui è allucinante, cioè è veramente ogni città, ogni posto un mondo a sé, e Los Angeles è un posto che devo dire che, nonostante siamo andati a vedere la scena, scusa Alex, tu entri e gli dice in inglese: devo mettere 20 de broda. No habla, non te entiendo. No, devo mettere 20 euro. No, non habla, non entiendo. Habla, è gringo. No, ma 20 euro de... $20. Ecco, certo, sì, sì. Le pistole, chiaramente. No, le pistole, a parte i poliziotti, non che ce ne sono tanti e dappertutto. Attenzione, non devi mai sfatare sto mito. Tu, anche se non l'hai viste, devi dire che lì l'hai visti a tutto spiano. Guarda che le pistole, solo nel Texas mi sembra che ci sia, che da poco tra l'altro è passata questa cosa, che le si possono mostrare e andarci in giro liberamente. E guarda la pistola, amico. Io però nel resto degli Stati Uniti non devi farlo vedere. Anche ovvio, tutto sommato, insomma. In Texas no, puoi usare, ma devi avere sempre coperto, perché in America ti sparano a vista se c'è un'arma, a meno che non sei negro, ti sparano a vista direttamente anche se non hai un'arma anche se non hai un'arma, certo. Vai, vai, Alex, scusa che ti interrompiamo. No, no, vai tranquillo, cioè, questa è una sorta di piccolo resoconto strano. Ripeto, ogni posto in cui sono stato è un posto completamente diverso. Los Angeles, la cosa più bella che abbiamo visto da Los Angeles sono, vabbè, le spiagge, che sono un po' fighette. Odore di marijuana fortissimo, cioè nel senso, perché lì tendenzialmente sono un sacco di posti dove puoi comprarla legalmente, sia la ricetta medica. E la cosa bella è che di fianco tutti c'è malati, il tipo che ti fa la ricetta medica di fianco, per cui è molto, cioè, credo che abbiamo fumato anche senza aver comprato niente. Però c'è un posto di merda, un traffico di merda, però ci sono gli Universal Studios, che sono un posto stratosferico. Cioè, sono tornato bambino per 12 ore. Cioè, è proprio bello. Scusa? L'hai visti? Ci sei entrato dentro? Sì, sono entrato dentro, cioè, sono andato, praticamente ho passato la giornata lì. E dove ci ha fatto la foto della USS Enterprise? No, quello l'ho fatto. Ah, no, è vero, Smithsonian, è vero. Vabbè, possiamo andare avanti, no? Vabbè, racconto la storia. Raccontaci gli Universal Stories. È un po' come se fosse Gardaland, ma bello, cioè è a tema cinematografico. Ci sono praticamente un sacco di attrazioni, quella più recente, quella di Harry Potter, ma c'è quella dei Simpson, quella di Transformers. Poi ci sono un po' di scene dal vivo, tipo una ricreazione live di Waterworld, il film con Kevin Costner, bellissimo. Ma perché? Di... perché? Perché è bello, cioè fa scena. Cioè, vedete, questo è il più grande flop di tutti i tempi. Però è costato un sacco di soldi. Infatti, per quello. Sì, però in realtà il brand lo stanno riesumando con questa attrazione bellissima. Ci sono i motoscafi che vanno in questo posto, cioè, e tu sei lì seduto che ti riguardi e ti becchi anche un sacco di splash. Secondo me stanno aspettando che muoia Kevin Costner per rivalutare il film, insomma, in qualche modo, perché sennò non c'ha senso questa cosa. Secondo me è un film che è invecchiato anche abbastanza. Invecchia piuttosto male, secondo me. Cioè... Beh, vabbè, ma era invecchiato quando è uscito. Come Kevin Costner? Costner, diciamoci la verità. Vabbè, no, lui fa pubblicità del tonno. È bello. Ah, beh, sì. Che poi è triste la pubblicità del tonno, perché tutte che, è bello, mi frega un cazzo mio marito, mangio il tonno con Kevin Costner, che cura. Cioè, sempre l'immagine, insomma, ci fanno sempre bella figura le donne. Sì, perché lui è finito con Waterworld, cioè è cominciato con Waterworld ed è finito col tonno. No, ma no, però lui ha fatto pure Superman. Sì, faceva il papà di Clark Kent, che per salvare un cane muore dilaniato da una tromba d'aria, cioè. Esatto, vabbè, ma probabilmente aveva dei complessi di inferiorità nei confronti del figlio. A un certo punto ha detto vabbè, finiamola qui, e volando via ha detto Messico, eccomi. Ma secondo me stava tornando a casa battendo tre volte i tacchi delle sue scarpette di rubino, una cosa del genere. Non so cosa stai dicendo. Sono solo in pochi. Quindi, vabbè, sei andato dentro gli Universal Studio, che c'erano. Ma c'erano anche, tipo, che ne so, i set, quelli. Però quelli che ti fanno vedere le scene. Tipo, sì, che ne so, le. Tipo Cinecittà del merda. No, sì, cioè, guarda, ce ne sono. A parte Cinecittà, ci sono le scenografie fighe. Però lì invece, che ne so, la scena di quel film te la fanno non rivivere, ma insomma, un po' se stai sballottando, è tipo una giostra. Allora, no. Sì, allora ci sono due tipi di attrazioni. Quelle due praticamente sono degli otto volanti. La maggior parte sono simulazioni. Praticamente tu ti metti gli occhialini 3D, sei su queste sedie che si muovono e uno schermo panoramico, tipo una sfera davanti, che ti circonda. E tu praticamente hai le sensazioni di cadere, di volare, di fare tutte queste cose, ma sei sempre appunto seduto. Vabbè, è molto realistico, perché è veramente cattiva. Cioè, nel senso, cioè, la prima cosa che mi ha fatto di Harry Potter, ho detto: oh Madonna, sto per morire. Io poi sono uno che soffre di vertigini. Però è molto divertente. Soffro di morte. Poi ci sono invece delle attrazioni dove praticamente fa vedere gli animali che recitano. Molto divertente, molto bello. Oppure come ricreano gli effetti speciali, praticamente facendoteli davanti con degli stunt oppure con delle miniature, insomma. E The Walking Dead, c'era The Walking Dead? C'era, ma è l'unico che non siamo riusciti a fare, perché a un certo punto era finita la giornata. E... no, vabbè. Ma noi dei zombie ci frega un cazzo, per cui preferivamo andare a vedere Transformers. Meglio Transformers, che non c'è niente da vedere, che voi vedete Transformers fatti in digitale. Sì. I zombie sono zombie, capito? Cioè, ma chi se ne sono morti veri, capito? Ma noi volevamo l'effetto roller coaster. Anche loro soffrono di morte, tra l'altro. Sì, assolutamente. No, e poi la cosa fondamentale per chi va negli Stati Uniti è pensare che costano tanto. Sono veramente cari. Anche perché tu devi considerare, soprattutto ai ristoranti, che tu per ogni $10 che paghi ne finisci a pagare 15, perché ci sono le tasse e le mance. lì le mance non sono obbligatorie, ma se non le metti praticamente ti cagano, ti ammazzano di bestemmie, ti ammazzano di bestemmie, sì. E proprio il minimo, se proprio se sei un merda, sono 15%, per cui si aspettano sempre che tu metta il 18-20%, e allora cioè finisce veramente a spendere un sacco di soldi per mangiare. Si mangia molto bene, io non pensavo, pensavo di mangiare di merda, invece a parte le due volte sotto al McDonald's, perché appunto ti capita che non c'è tempo, non c'è cose, spendendo anche un $15 a testa, $20 in meglio, si mangia veramente veramente bene. Cioè, più che altro c'è una forchetta molto, cioè scusate la cosa da ridere, per c'è una forchetta piccola piccola, cioè per iniziare a mangiare molto bene non devi spendere tantissimo come in Italia, mentre in Italia cioè puoi mangiare, spendi poco, mangi male, per mangiare bene devi spendere molto di più. Questo la benzina... lo dici perché non sei venuto da Lella la Zozzona qui allo Sbragato, perché insomma ma lì, bene, lì non esistono le Lella anche Zozzona sì, quello ti manda de corpo proprio, sì. Però paghi 5 euro 9 diciamo. euro, 10 euro fai il pranzo, compri il mio secondo contorno, dolce, tutto. Senti Alex, io c'ho una domanda, sì. A questo punto, ma ci siete andati su il cazzo di, come si chiamano quei, quelle stazioni di servizio dove c'è sta, dove si mangia dentro, che ci fanno il pollo fritto, il diner, sì. Scorbutica maledetta che ti dà sempre il caffè, ti butta dentro e ti dà, insomma, il dolce del giorno. Esatto, sì, sì, sì. Ci siamo andati due volte a San Francisco, prima di tutto. Ovviamente non ci sono, no, siamo andati anche una volta nella vicino a Death Valley. Sì, sono esattamente così. Posti dove tu vai, se tu prendi il caffè te lo continuano a riempire. Pietà, ti dici pietà sotto. Ti portano sempre l'acqua lì praticamente, cioè, te la portano sempre con una vagonata di ghiaccio, cioè, qualsiasi temperatura ci faccia fuori, tra meno 10 a 50 gradi c'è sempre l'acqua col ghiaccio. Sì. Ma lì sparano proprio così. Parecchio con l'aria condizionata, se non sbaglio. Assolutamente sì, cioè, 15 gradi minimo, insomma. Ma no, veramente passavi dai 30-35 gradi da fuori ai 18 gradi di dentro. Infatti cioè, gli square house sono tollerati, anzi sono abbastanza comuni. Come si dice, cioè, scusi, è un attimo, ora torno. La cosa più figa sono le colazioni. Quando ero a bagno, vado a bagno. Le cose più fighe sono le colazioni, cioè lì praticamente la colazione, cioè il pranzare è una cosa un po' opzionale, per cui dici, tu fai, ti fai una colazione magistrale, cioè noi andavamo in questo diner a San Francisco, mangiavamo uova come si dice, non sbatacchiato, no? Sì, uova spacciullate, carne, cioè hamburger, patate al forno, cioè praticamente una cosa veramente cattiva, e ci bevevi anche il caffè. Poi in realtà ho cominciato a smettere di bere il caffè perché faceva cagare, perché alla fin fine poi mettevi veramente una vagonata di zucchero, e in più le zolette, cioè le bustine di zucchero sono grandi come mezza bustina di zucchero in Italia, per cui cioè devi mettere tipo 10 bustine di zucchero per riuscire a zuccherare decentemente quel caffè. Eh sì, quello è il problema di quel caffè, è vero, sì. Ma io cioè, ripeto, l'ho bevuto due volte, poi ho detto, ma no, ma perché devo farmi male così? La cosa fondamentale è non cercare di mangiare italiano, neanche le colazioni, costano tantissimo e non sono per niente buone. Li abbiamo preso una volta a San Francisco per cambiare, c'è un bar italiano, dove prendiamoci una colazione all'italiana, fanculo, cioè jamais. Invece loro pensano che è buono e va di moda, quindi sì. Comunque diciamo che gli americani non capiscono cazzo generalmente. No, non è vero. Allora, la cosa fondamentale che ho trovato, a parte New York, e che era un posto a sé stante, in tutto il resto dove sono, il posto che sono stato, ho trovato tantissima gentilezza e tantissimo rispetto nei confronti dei turisti. Cioè tu vai lì e magari non hai le informazioni, loro cercano di dartele prima che tu ne abbia bisogno. Questa è una cosa che funziona molto bene, e anche se capisci poco l'inglese, cioè cercano di spiegarti, di essere pazienti. Beh, su quello sono più abituati, certo, è chiaro. Sì. Come gli stronzi parigini, insomma. Sì, no, in realtà secondo me è l'Italia che è un paese che dovrebbe vivere di turismo, prendere tutti quelli che fanno turismo dovrebbero andare lì a vedere l'approccio, anche perché c'è un approccio molto entusiasta. Siamo andati a San Francisco, c'è una torre da cui si vede praticamente tutta San Francisco, e tu per andare lì fondamentalmente paghi tipo $3. E gli ho detto, siccome in quasi tutti i posti, se sei un giornalista, entri gratis, ho fatto il buffet, ma c'è uno sconto per giornalisti. E il tizio lì all'ingresso mi ha guardato per un qualche secondo e ha detto, ma se io ti faccio entrare gratis, tu scriveresti una storia su questo posto? E gli ho scritto, no, sinceramente non c'ho proprio voglia. Ok, allora fa niente, paga. E allora sono andato su. Però per entrare in questa torre, cioè, devi fare l'ascensore. Tu entri, c'è sta signora che saluta tutti, vuol sapere da dove sei venuto, eccetera, eccetera. e questa si fa tipo 200 volte su e giù tutto il giorno, e tutte le volte comunque chiede alle persone da dove vengono, si interessa, cioè, e lo fa con un grande entusiasmo, e tu dici cacchio, questa gente qui fa un lavoro veramente un po' del cazzo, però lo fa con amore per la propria città. Io penso è una cosa che mezza giornata fa un lavoro del genere, insomma. Vabbè, però ripeto, cioè, al terzo giorno che lo fai in Italia, cioè, ti becchi i porconi, invece qui no, c'è questa cosa, no, questo approccio. Vabbè, ma questo non è detto, ti ribadisco, non sei stato a Parigi, quando andrei a Parigi no io sono stato diverse volte a Parigi, però per dire, cioè, l'approccio è molto fiero, devo dire la verità, c'è un sacco di gente con cui abbiamo chiacchierato, era molto contenta di quello che faceva e cercava di fare al meglio possibile, e questa è una cosa che devo dire che in Italia vedo molto poco, per cui nonostante sono detto, ma questo in America, giustifica anche i telefilm come Falling Skies, Sky, insomma, cioè, la fierezza, giustamente, c'è stanza, di sì, in effetti. A tutti i tassisti ho chiesto che cosa avrebbero votato, e tutti praticamente ce l'avevano a morte con Trump. A New York mi hanno fermato dei tizi dicendo, ma tu sei registrato per votare? Guarda, io avevo la spilletta di Clinton, e io ho detto, guarda, io sono europeo, però se fossi americano voterei per la Clinton, e loro hanno detto, ma cazzo, tutti gli europei che vengono qui dicono tutti la stessa cosa, cioè, speriamo che non vinca Trump perché è una merda. Davanti al Trump Plaza a New York c'era un tizio vestito da cazzo, proprio da cazzo, proprio un cazzo gigante, cioè, con la faccia, salve, sono un cazzo, sì, con la faccia di Trump al posto della cappella, era proprio bellissimo. No, dai, sì, sì, proprio lì, era tranquillo, nessuno aveva arrestato, no, era lì, ovviamente il Trump Plaza c'era un sacco di polizia davanti, però lui era lì, proprio si manifestava, non voglio soldi, non datemi soldi, voglio solo manifestare contro Trump, si faceva tipo mesi e mesi a manifestare. Bello, bello, sì, sì. Che cosa fai nella vita? Tu il cazzo. Faccio il cazzo di Trump, però. Ah, una cosa fondamentale è il colesterolo. Cioè, in America, finché non siamo arrivati a Washington, non ho visto una persona che fosse non grassa. E i grassi veramente sono veramente tanto. Vabbè, questo è un problema risaputo, ma è proprio l'alimentazione. Sì, ma non te ne rendi conto. Cioè, lì pensi che se ne siano... Lì proprio sono tutti. Cioè, le prime persone normali, li ho visti a Washington, perché a Washington è consuetudine, c'è un sacco di gente che va a correre nella parte centrale di Washington, e a New York ovviamente, perché vanno tutti a correre a Central Park, e poi a New York mi hanno detto tutti, anche una ragazza che abita lì da qualche anno, dice che New York è un posto a sé stante, cioè come se fosse un'isola all'interno dell'America, perché per il resto dell'America veramente il problema dell'obesità è cattivo, ma anche perché effettivamente, cioè, noi siamo tornati dall'America, io sono ingrassato non so neanche di quanto sono ingrassato, però di un sacco di chili, perché si mangia veramente, si mangia bene, però è difficile mangiare normale, neanche difficile cucinare qualcosa, perché non è difficile trovare il pane. La prima panetteria che abbiamo trovato è stata a New York, cioè non puoi comprare il pane, puoi comprare il panino già pronto, non puoi comprarti un etto di affettato, non esiste. L'acqua costa più delle bibite gassate, tanto costa, cioè l'acqua costa tipo 2,50 dollari al litro. Siamo arrivati in un autogrill che ci aveva in offerta l'acqua un litro a un dollaro, che abbiamo fatto incetta perché è praticamente impossibile trovarla, e l'acqua dei rubinetti è abbastanza cattiva, per cui, cioè, tu in questi autogrill ci siete ancora? Sì praticamente, tu hai presente la scena di Matrix dove dice abbiamo bisogno di armi e arrivano appunto gli scaffali pieni di armi? Tu vai, esatto, in questi autogrill e praticamente arrivano gli scaffali pieni di snack di qualsiasi tipo, patatine in qualsiasi salsa, dolci, cosa, carne da masticare, cose, veramente di buone. Carne da masticare? Che sì, c'è una sorta di carne secca che tu mastichi, che era la cosa più sana che avevano. Ma quella da redneck, è quella roba. E poi sputi. No, quella io quella è tabacco, per Dio, quello è il tabacco che si mastica. Sì, ma anche quella non è che è buona, cioè, però il tabacco è una fogliolina che ti metti sulla lingua, ciancichi un pochetto, poi li sputacchi, però insomma la carne secca fa schifo. Le coppiette, sì, no, vabbè, dai, non scherziamo, le coppiette americane, the little couples, the little couples. E vabbè, questo insomma, vabbè, ma sul fatto dell'alimentazione si sa, che poi tra l'altro in effetti dice, vabbè, oggi io ho avuto lo stesso problema quando sono a Trieste, che hanno questa alimentazione tirolese, no? Austriaca, E a un certo punto il terzo giorno sono stato dentro un ristorante e ho detto: scusate, ma ce l'avete un pomodoro? Un pomodoro, cioè un pomodoro con una foglia di lattuga, una cosa normale da mangiare? No, non... E questo è, insomma, però vabbè, cioè nel senso, io comunque una settimana di andarli dove c'è sta la cameriera scorbuti e attraverso il caffè e ti dice: il oggi il piatto del giorno è il pollo fritto sull'olio dell'altro anno e via dicendo. Cioè, no, non è che ti dice che è l'olio dell'altro anno, lo devi capire tu. No, perché cioè, c'era quel telefilm quando eravamo ragazzini che raccontava proprio, cioè era ambientato in uno di questi Scili e Laverne, cioè. Bravo, qualcosa del genere, che dice: ah, c'è il pollo fritto, il pollo fritto come lo facciamo noi fa schifo, come fa schifo da noi non fa schifo da nessuna parte. Quindi, insomma, il senso era quello, insomma. No, tendenzialmente i camerieri sono sempre molto molto gentili, perché loro praticamente lavorano quasi gratis e il loro stipendio è fatto dalle mance, per cui tendono tutti a essere molto molto cortesi, in modo che tu gli dai la mancia, cioè devo dire che se su quello ti senti molto coccolato. La cosa interessante è che non si fanno problemi. Vuoi i miei soldi, maledetto. Proprio come l'idea del fatto: quanto gli devo dare? Mancia di 15% di anno, gli do 10. Non si fanno problemi per quello che mangi, tipo, visto che lì le porzioni comunque sono sempre molto, molto abbondanti, uno potrebbe dire che mangio o un primo o un secondo. Fare il primo secondo è veramente deleterio, perché finisci che non mangi. Una volta siamo andati in un posto dove facevano un barbecue particolare, praticamente facevano la carne affumicata, e noi abbiamo preso un'insalata in due, un'insalata di pollo in due, e proprio tranquilli, cioè non si fanno tanti cazzi. Cioè tu quello che ordini, non è che ti guardano come sei una merda. No, scusa, stavo dicendo, non è che ti dicono: a stronzi, qui si mangia la carne affumicata, mo te mangi questa e te stai pure zitto. No, no, ma poi ripeto, siamo andati lì e non volevamo mangiare tantissimo perché dovevamo fare diverse cose. La carne affumicata, il pollo affumicato c'era nell'insalata. Poi però le abbiamo detto: guarda, però è talmente buono che torniamo la sera. E infatti la sera questa cosa dei piatti unici, poi, no? Cioè, nel senso, i piatti unici dove c'è un po' carne, la verdura, c'è un po' tutto. Insomma. Ma no, in realtà, cioè, nel senso, va un po' un po' come dappertutto. Non c'è. Abbiamo mangiato delle cose particolari, caratteristiche, tipo siamo andati al The View, che praticamente l'albergo che sta all'interno della Monument Valley, gestita dai Navajo, e lì praticamente potevi mangiare del cibo caratteristico, ed erano una sorta di zuppa di cose abbastanza piccante, però effettivamente, cioè, quello zuppa era particolare. Di peyote, esatto. Zuppa, sì. Zuppa di fungo allucinogeno. Lì devo dire, la Monument Valley è in particolare, cioè io non sapevo, la nazione Navajo, che si estende per un'area grande quanto uno stato degli Stati Americani, a parte la moneta, c'è, cioè, la sua polizia, il suo governo, cioè praticamente uno stato nello stato, un po' come se fosse la città del Vaticano, però grande come, che ne so, l'Italia intera, mettiamola così. D'altronde vuol dire anche giusto. Però paga le tasse al governo, cosa che non fa la città del Vaticano. Sì. Probabilmente la differenza è questa, diciamo. Piccola differenza. Vabbè, poi ha visto gli indiani, cioè gli indiani vanno in giro con qualcosa di tipo con le penne in testa. Le penne in testa, no, vabbè, cioè, no, quando hanno qualcosa però, di nella Monument Valley, che è appunto gestita da loro, abbiamo fatto il tour guidato da loro, ed è stato anche abbastanza interessante. Abbiamo visto un po' ovviamente è una cosa turistica, però fanno vedere un po' come vivevano tipo 100 anni fa. E alcune famiglie mantengono ancora alcune tradizioni, le stanno perdendo giustamente per l'integrazione e tutto quanto, però gli anziani ancora cercano di tramandare le vecchie cose. Ovviamente sono vestiti molto più normali di quanto possa sembrare, cioè le penne non ci sono, con la camicia a scacchi, però di solito con vestiti di camicia a scacchi. Ma quelli sono i boscaioli. No, oppure se tu vedi l'immagine che fanno vedere nei film americani, quando vedi un indigeno, insomma un indio, come cazzo si chiama, insomma, sono sempre vestiti con le camicie a scacchi. Io so, poi, so solo che c'era sempre la bottiglia di whisky, esatto, c'hanno questo problema poi dell'alcolismo, perché non l'ho spiegato pure una volta a Michela, perché sarebbe magari, vabbè, forse ne parliamo una volta. Michela dice che non hanno l'enzima non ce l'ha nessuno per Michela l'enzima per digerire, solo noi in Italia abbiamo l'enzima. No, è un problema pratico, perché comunque molti sono rinchiusi in queste riserve, e comunque o la disoccupazione o cazzi e mazzi, insomma, alla fine questi, e gli bastano 35 euro al giorno per bere. Questo io mi accontenterei, sì, se fossi 35 euro al giorno, una paci o Navajo. No. E vabbè, dopo aver fatto questo ennesimo, sì, perché non solo con la gente di colore, ma anche con gli indiani. Parliamo dei negri. Ci sono tanti negri in America, insomma, no? Tu sei andato in qualche quartiere negro? No, non particolarmente. No, non siamo andati, non abbiamo fatto in tempo a vedere né Harlem né il Bronx. E però ci saresti andato, sai, perché tu ad Harlem, un po' di quando... tempo sì, a vedere la messa che fanno, però gospel. Tu devi andare ad Harlem, scusa Alex, quando vai in America, vai a New York, devi andare ad Harlem e dire: io da piccolo guardavo il mio amico Arnold. E ti rifai tutti amici. La prima serie si chiamava Harlem contro Manhattan. Se il negro ti imbruttisce e ti guarda male, e a un certo punto sto negro ti sta dicendo: oh, what the fuck, no, è tutto, guardi, che cosa sto dicendo. Secondo te lo capisci? Secondo me non devi, mi hanno detto che non devi guardarli negli occhi, sennò ti imbruttisco. Esatto, devi guardare nelle orecchie. Nel naso al massimo, ma non nel naso, no, perché vabbè. Poi non fate di cose razziste, dai, scusa. Ma perché adesso c'è l'Harlem Shake? Mandiamo un brano di Harlem Shake. No, che cos'è? No, ma neanche cosa, per il cazzo. Neanche i video hai visto? Vai su YouTube, scrivi no, Harlem Shake. Non mi interessa. No, cose sì, fantastiche. Vabbè, ma è già vecchia sta roba, Simo. Cioè, era da no, prima non lo so, però io l'altro giorno sono stato dal dottore, lo voglio dire, sono stato dal dottore perché, come sapete, sto morendo. Di bestemmie, e sono andato dal dottore. E non c'era nessuno in sala d'aspetto, strano, perché sai, del piano dei vecchi, sapete, al dottore, no? Che sono morti nel frattempo, mica possono sempre stare là. Ho mummificata seduta sulla sedia che sta seduta perché è mummificata, mica per altro, insomma. Allora, comunque non c'era nessuno. E mi si avvicina la segretaria, l'altro giorno ho fatto del panico, un po' capito. Perché questa è una ragazzetta simpatica, caruccia, cioè è una di quelle precise, che tiene, si ricorda i nomi di tutti. Però ogni tanto, secondo me, il weekend si fa qualche cosa, se insomma gli rimane un po' dentro, insomma, cioè gli dice: guarda qua, l'altro giorno ho ballato, e mi fa vedere lei che ballava le quattro notti al club, insomma, cazzo dove, e vabbè, e poi dice: no, perché l'Harlem Shake mo la faccio pure io qua quando il dottore non ci sta, perché così tutte le vecchie. Io sono rimasto un po' basito, perché e lì veramente ho preso coscienza, come abbiamo detto con Michele tante volte, da me sono 10 anni che diciamo che David Lynch non si è inventato un cazzo, cioè nel senso a Monte Rodolfo, secondo me è venuto a Monte Rodolfo, c'è stato un annetto così, d'altronde c'è stato Harry Cavill, esatto, ci può stare pure, c'è sta anche David Lynch, che sicuramente avrà preso una casa nel quartiere vicino alle case popolari, probabilmente giù vicino alla stazione, ha preso una casetta sbragato, lì, perché pure ho sbragato, no, sbragato ci andava la sera, ci andava dopo la sera, è vero, sì, no, sì. E insomma c'è questa cosa che io mi immagino questa qua, cioè, a un certo punto sta stanza, sta sala d'aspetto piena di ste vecchiette, e questa sta a San Piedi e comincia a fare l'Harlem Shake. Dai, scusa Alex, no, io ascolto, cioè digressione così, insomma. A New York c'è tanta polizia. Noi siamo andati lì praticamente 2 giorni dopo che avevano fatto quel micro attentato, è presente? Che è una stronzata, là. Sì, però ripeto, la cosa bestiale è che c'era la pressione, attentato, morte. Beh, insomma, però insomma, con gente che si è fatta male ce n'è stata. E praticamente New York è una città in guerra, che però vive questa cosa in maniera molto naturale. Per dirti, ci sono tonnellate ma tonnellate di poliziotti in assetto da guerra, non i poliziotti che abbiamo in Italia e neanche i carabinieri, cioè praticamente arrivano queste camionette piene di poliziotti con un mitragliatore e addosso tipo 40 caricatori per la serie. Io posso sparare da qui fino al giorno dell'apocalisse, e anzi causarla, cioè, la che sera... è cosa che fanno, che potrebbero fare tranquillamente, sì, perché, sì. Insomma, loro però... sono progettati per questo. Però è tutto abbastanza delicato, cioè nel senso, cioè se tu non li guardi è come se non ci fossero. La sera siamo andati a vedere uno spettacolo, guardarli. A Broadway, e praticamente su uno dei palazzi, sai che c'erano queste le scale antincendio dove la gente, su una di queste scale c'erano alcuni poliziotti con i visori notturni che guardavano il cielo, un po' come dire, vedere se ci fossero cecchini. Vabbè, bello. Le scale quelle esterne sono quelle dove normalmente i criminali delinquono, mi sembra, esatto, no? Almeno, dove scappano, dopo aver delinquato, infatti. Perché voi dovete sapere una cosa, allora l'America c'è sto problema, no? Della criminalità che c'è sempre stato, insomma, tanto sento cose che si distruggono, vabbè. Scusa, ho scorreggiato. Erano i polmoni di Alex. Esatto. C'è sto problema della criminalità, insomma, è il paese col più numero, con il più alto numero di omicidi al mondo, no? Che però ricordiamolo, non sono affatto, non è colpa delle armi, affatto correlate con l'alto numero di armi che sono in giro, assolutamente non c'entra, no. E soprattutto la facilità d'acquisto, non no, è assolutamente no. Però c'hanno sto problema che tu praticamente c'hanno le porte degli appartamenti che sono che cazzo che aiutano a fare, cioè potrebbero tranquillamente lasciarla aperta. Scusami, ma se tu hai per facilità di trovare una K47 oppure un lanciarazzi, una porta blindata, non serve a un cazzo. Quindi. Ma poi la cosa bella è che dopo che io sono entrato in casa tua con una forcina e ti ho ammazzato, anche non avendo una K47, basta pure una pistolettata semplice. E ho anche la via di fuga, perché comunque esco dalla finestra e me ne vado via per l'antincendio. Insomma, è un po' così, cioè un po' paradossale questa cosa What's America, no? Sbaglio, beh, in realtà cioè nel senso la fatto di avere la porta aperta dipende. A Boston, per esempio, che è una città che è la città più tranquilla del mondo, è una città che è molto europea per certi versi, la polizia è praticamente agli angoli delle strade, ma potrebbe, per dirti, e può far attraversare la vecchietta la strada, cioè è un approccio molto, molto delicato, molto tranquillo. A Los Angeles invece lì si sente che è proprio una città, non dico che è una pentola a pressione in ebollizione, però devo dire che le minoranze ci sono segregate nei vari posti, ci sono i vari quartieri coreano, ci sono una vagonata di spagnoli, anzi lì praticamente lo spagnolo è parlato più dell'americano, dell'inglese probabilmente, per cui cioè è anche vedere da dove stai. Siamo andati a Page, che è questa cittadina che è stata costruita negli anni 50 quando hanno fatto la diga, una diga praticamente, ha costruito questa città nuova. E lì praticamente era tutto molto tranquillo, molto, molto sereno. La cosa più divertente di Page è questa curva che fai per andare poi all'Antilope Canyon, dove ci sono sette chiese di origine cristiana. Ci sono i cattolici, i metodisti, i protestanti, gli avventisti del settimo giorno. Ma altre tre. Domenica sì, sì, però praticamente c'è la strada fa una curva e ci sono queste sette chiese, una di fianco all'altra. Gesù viene da noi, noi siamo gli unici veri. È molto divertente, no, però comunque nel senso positivo. Sì, sì. È molto, molto carino questa cosa qui. Vabbè, dai, c'è. Dicevo, New York era una cosa, hai visto i fumi che escono dalle fogne? Alex, scusa, i fumi che escono dalle fogne, perché nei film ci sono sempre i fumi che escono dalle fogne e dalle quali le esce tombini, le tombini dalle quali poi esce il cattivo di turno. No, però quello d'inverno però succede. Sì, sì, sì, forse anche d'estate. No, anche noi siamo stati lì a settembre, facevamo un caldo bestiale, c'erano. Però adesso hanno una cosa, praticamente mettono sui tombini una sorta di cilindro alto 2 metri di plastica, in modo che poi il fumo esce da sopra il cilindro. Non mi chiedere perché, però appunto è così. Ma che cazzo è sto fumo? Forse perché respirarlo fa un po' schifo. Secondo me la condensa, perché loro utilizzano riscaldamento a palla d'inverno e raffreddano molto l'aria condizionata d'estate. Quello che mi hanno detto a me è che sta Stivo Dombini, che praticamente c'è la reazione dell'aria condizionata. Soprattutto sono scie chimiche, molto più semplicemente sono scie chimiche. Anche scureggio, anche le armi, insomma, che hanno sperimentato negli anni 60 per vedere se un batterio funzionava o no. Perché negli anni 60 hanno fatto gli esperimenti per vedere se una determinata composizione chimica dispersa nell'aria rendeva cretini le persone. Esatto. E ci sono riusciti. Ci sono pure in Italia, però, dopo sì, ma poi dopo lo stanno espandendo tutto il mondo, soprattutto nell'alta padana, insomma, visto che nebbia. Se, dove c'è la nebbia, no, non c'è, è Alex, nebbia, non lì è c'è, nebbia. Sta Alex lì, poverino, no. Alex è sta a Milano, diverso, io parlo proprio del Padano, cioè la zona padana provinciale è un po' come il redneck, è come tranne per il fucile americano, insomma, cioè, tranne per il fucile, perché non ce l'hanno, forse sì, non è vero. Ricordiamoci sempre, c'è un nostro simpatico amico che faceva quel suo podcast Armi e Tecnologia, che noi gli vogliamo bene, Ivan, ciao Ivan, però insomma, cioè, ti fa già capire, insomma, che io parlo di tecnologia ma anche di armi. No, l'ultima cosa volevo dire, sempre parlando appunto della polizia a New York, siamo andati nella chiesa di St. Patrick, che è chiesa di San Patrizio, e lì, bestiale, tu per entrare praticamente per entrare in qualsiasi posto negli Stati Uniti devi passare attraverso un metal detector e farti ispezionare la borsa. E tu entri in questa chiesa, ti ispezionano la borsa, ti siedi a pregare, c'era la messa, e ci sono i poliziotti armati che vanno avanti e indietro sulle navate. Cioè tu ti fai la messa tranquillo, però appunto c'è... Cioè, ma questo è in tutte le chiese o in una chiesa specifica? No, questo l'abbiamo beccato solo in questa. Praticamente tutte le chiese che abbiamo visto... Sarebbe una follia, cioè... È così. Quasi, ma poi dipende anche dal tipo. Cioè, quasi tutte le chiese in cui siamo stati... Avevo un lavoro in corso in facciata. Io ho continuato a pensare: questi fanno finta di avere lavoro in corso in modo così la gente non gli rompe il cazzo. Perché l'idea era quella che appunto temessero un attentato di matrice anticristiana, anticattolica, in questi luoghi. La cosa divertente è la televisione. La televisione fa schifo. Fa schifo a due livelli, fa schifo per i contenuti, cioè lì praticamente hanno probabilmente Maria De Filippi potrebbe essere una top negli Stati Uniti, e tecnicamente fa cagare, cioè è tutto in 4/3, si vede male, cioè veramente, è come la televisione, quella non a pagamento, è inqualificabile, quella a pagamento, cioè, dato che non ci pagano, fanno schifo, insomma, giustamente siamo giustificati per essere merda. Esatto. Non ci pagano, avete presente i canali della televisione digitale terrestre dopo il 10, sai, quelle che appunto non guarda mai nessuno, quelle scrause, e lì sono tutti così, cioè sono veramente fatti male. Poi i canali invece a pagamento in alta definizione sono bellissimi e funzionano. È curiosa questa cosa, che comunque l'americano, che comunque è il capitalista per eccellenza, veramente misura tutto dal punto di vista economico. Ti sei fatto, cioè, avevi l'assicurazione se facevi male o cose? Sì, prima di partire ti sei praticamente obbligato a fare un'assicurazione che ti copre praticamente tutto, una percentuale non trascurabile del budget del viaggio di nozze è andata in quello. Anche perché poi noi prendevamo l'automobile, scusate, guidavamo, chiediamo questo, lo chiediamo due, a Pizzi, cioè, che lui è più materia sua, belli cicci. No, dicevo, chiedevo a Pizzi, che è più materia sua, perché se le fai anche tu come assicuratore queste assicurazioni, ma se si presenta da te un ragazzo di colore, è aumentata? Se la fai in America probabilmente sì. Qui non costa uguale, no, qui non ci fanno, qui ci sono altre discriminanti in Italia, comunque sì, la facciamo pure noi. Sì, okay. Esistono proprio, ma esistono in generale a tutti i livelli, dal bagaglio alla sanitaria, cioè, quindi esistono, ma sono sempre esistite, anche con le carte di credito ci stanno, insomma. Comunque è bello perché abbiamo finito praticamente dicendo una marea di cazzate in luoghi comuni su qualcosa, e continuiamo a dire cazzate in luoghi comuni su altre cose. Sempre, sì, chiaramente. Vabbè, però sono luoghi comuni già un po' più giustificati perché noi continuiamo a dire luoghi comuni, lui ce li sfada, però noi facciamo finta di non ascoltare. No, beh, però, non sta sfadando, però. A parte tutto, io sono stato in 10 posti diversi ognuno, cioè contemporaneamente, sono stato... poi è sì. È veramente enorme, cioè hanno talmente tanto spazio perché tutto quello che c'è è grosso, è largo, e a parte New York, che è un posto talmente enorme come città, che appunto tu vieni schiacciato da questi palazzi, cioè tu, quelli che per noi sono i grattacieli più alti sono lì, sono quelli più bassi, cioè sono quelli normali, e poi ci sono quelli infiniti che vanno su. Però ripeto, tutto quello che c'è, ripeto, è largo, enorme, è spazioso, diciamo. Per dire, le strade sono molto più larghe perché devono appunto consentire il passaggio di oggetti molto più larghi. La cosa interessante è dell'automobile, che appunto hanno praticamente tutte le cambio automatico, per cui praticamente tu pigi, fai, e l'auto, cioè una curva di accelerazione che va appunto, cioè ci mette tipo da 0 a 100 in 3 ore e 20, però si consuma relativamente poco. La benzina non costa 4.000 cavalli, insomma. Cioè. Sì, vabbè, la benzina non costa molto. Cioè, noi gli americani, infatti, per questo non sanno guidare, cioè, nel senso, cioè, tu gli dai una macchina in Europa, loro non entrano nel panico. Sì, penso di sì, penso che possa essere un problema. La benzina costa poco. Per dirvi, noi avevamo una Hyundai Accord, credo che sia così. Abbiamo fatto 3.000 km e abbiamo speso $110, per dirti. Non c'erano caselli, qui sì, cioè, il costo del carburante è molto basso. Ma e ci la sono foto dei posti nella Route 66, da, si è fatta o no? Certo, siamo andati nella Route 66 e ci siamo fatti la foto. Allora, ed è vero che è una palla. Cosa? La strada tutta dritta. No, non è tutta dritta. In realtà era una delle prime strade che hanno fatto negli Stati Uniti ed era molto curva. Ed è per motivo per cui l'hanno dismessa negli anni 60-70. Perché hanno costruito la rete dritta la strada, se no non... Perché fa la curva quando possiamo farla dritta? Ma no, è che fondamentalmente c'è uno spazio di 500 km. Che cazzo fai la strada la curva? Vai dritto, cioè non c'è un cazzo di posto dove andare a destra, a sinistra. E è diventata, insomma, poi il fatto che la strada ogni tanto gira, insomma, diciamo, desta l'attenzione. Questo è un po'. Sì, sì, sì. Poi dipende dal posto. Nella strada che abbiamo fatto tra la California, da Los Angeles allo Utah per andare nella Death Valley, cioè lì ogni 10 km il paesaggio cambiava completamente. Sono state 4 ore di viaggio allucinante. Ma è vero che queste strade, queste route, alla fine di sera sono, non so, illuminate, anche da noi sono tutte strade, abbiamo la Nomentana che è buia, perché dovrebbero metterci la Nomentana, che vuol dire la Nomentana è buia perché non si sa di chi è la competenza, del Comune di Roma, di Monte Rotondo, della Regione Lazio. Dovrebbe essere la stessa cosa, no, per lì, perché secondo me è talmente, cioè, quanto sarà lunga sta cazzo di strada, cioè dove la via la corrente, capito? Anche è quella, è proprio logistica, insomma. Allora loro dice, vabbè, però quindi è scura, è tutta buia la notte, cazzi tuoi. Secondo me sono cazzi tuoi, tanto ci stanno i coyotes, quindi ci stanno i coyotes. Ma ci sono un sacco di animali selvatici in giro, abbiamo animali visto esotici. Alci, cervi, una volpe, degli oggetti, delle cose che si chiamavano tacchini ma non erano tacchini, cerbiatti, abbiamo visto veramente un sacco di un'aquila, abbiamo visto, cioè c'era un sacco di roba in giro così, senza tanti cazzi. Oh, ciao, sono un alce, non mi rompete i coglioni, voi non li rompo a voi, cioè. Anche perché l'alce, insomma, è grossa. Ho capito, orsi non ne abbiamo visti, devo dire la verità. Non abbiamo visto Stefano Orso. Non hai visto Stefano Orso? Riesumare le vecchie glorie, che bello. Io quando tu dici orso mi viene in mente Stefano, quindi non so per quale ragione poi di preciso. Vabbè, e c'è altre cose che vuoi, altre peculiarità? Perché allora, una città che a me è piaciuta, anche se strana, è Washington, e secondo me va vista. A Washington praticamente tu, uno dice, c'è tutto in questa striscia di terra, quella che praticamente si vede in tutti i film, dove c'è il monumento lì, l'obelisco gigante e il Parlamento e la Casa Bianca, praticamente tutto lì, solo che è lungo 7 km sto coso, per cui se te la fai a piedi è veramente massacrante. Il mall, esatto. Però la cosa bella è che ti fanno le visite guidate gratuite. Sembrava più piccolo Fallout 3. Su Fallout sembra più piccolo, sì. Sto cazzo, cioè, provo a camminarci. Ti fanno le visite guidate alla Camera dei Deputati e ti spiegano come funziona il sistema elettorale americano. Che sembra una cazzata, però ripeto, in Italia nessuno te lo fa, nessuno sa come funziona l'iter legis in Italia o qual è la storia. Invece lì ti fanno questa visita guidata, ti fanno vedere un film di un quarto d'ora e poi ti fanno vedere il giro e in un'ora ti raccontano questa cosa, ancora una volta con una guida molto entusiasta, molto contenta di fare la guida, che ti, sì, entusiasta, cioè, ripeto, sono fiero di essere tale, esatto. Non è così, cioè, nel senso, è ovvio che poi se tu lo macchiettizzi diventa così, però in realtà la maggior parte della gente che ho visto non era delle macchiette, era proprio comunque contenta di fare quello che stava facendo, che è una cosa strana, cioè in Italia tendenzialmente se dimostri di essere contento di lavorare ti prendono per un pirla quasi, e invece lì è abbastanza diverso, e devo dire che in Washington a me è piaciuta. Però è un posto dove non vivrei ed è un posto dove ve lo consiglio a chiunque ci vada, non prendete un mezzo pubblico perché non ci sono. Ci sono le fermate, ti dicono che passano, ma non passano mai. Cioè, conviene, cioè, veramente prendere un taxi e è una presa per cui, cioè, in realtà i mezzi pubblici di Washington è una trollata. Quindi, vabbè, insomma, dopo aver capito che a Washington i mezzi pubblici sono una trollata, sì, sono una trollata. Allora, Alex, ti faccio una domanda. C'è un posto di quello che hai visto, di quelli che hai visto, che hai detto quasi quasi qui, quando sarò vecchio ci potrei vivere? Usti, da vecchio nessuno. Forse San Francisco è un posto figo. Devo dire che la cosa che più mi ha deluso, tra virgolette, è stato il Grand Canyon. Il Grand Canyon mi ha deluso perché dopo aver visto il Bryce Canyon, che credo di essere uno dei posti più belli sulla faccia del pianeta, Dici sì, bello, grande, però non ha la stessa varietà, la stessa ricchezza. Cioè il Bryce Canyon, per dirti, mi sembra di essere su un altro pianeta. L'Antilope Canyon lo stesso, e la Monument Valley, la Death Valley è un posto stranissimo, veramente sembra di essere in un posto, in un altro mondo, dimenticato da qualunque essere vivente. E il Grand Canyon, sì, il Grand Canyon, devo dire che è stata una cosa carina, però va bene, potevo anche non andarci. Però San Francisco è un posto sì, dove probabilmente ci potrei vivere da vecchiaia. Bene, allora, certo, per raccontare gli Stati Uniti, mo, al di là del morti, dei bestemmie e le cazzate che diciamo noi, penso ci voglia veramente... sarebbe bello, ecco, non so, magari se ti viene in mente fai una puntata di Summer Radio dedicata proprio a questo allora, viaggio road music, no? Esatto, però quindi un po' di country, un po' di cose del genere. Comunque un po' di country le radio nella praticamente zona Arizona, Utah, queste cose qui, c'è solo musica country, due palle infinite che ricordiamo è la mazzucca di noi, meno, sì. Esatto, sì. Ogni tanto io mettevo su un podcast perché la macchina leggeva i file dell'iPhone. La macchina faceva che è sto schifo. Mia moglie lo diceva. Cioè, che è questa roba? Io sto dormo. Voglio dire, meglio podcast che ama musica del Montana. Insomma, va bene, allora. Esatto. Prima di passare alle altre rubriche, Marco ci voleva segnalare una pagina Facebook che è molto importante. È attinente perché c'è una persona che è quasi stata che è assurda a bestemmiatore del popolo, che è Enrico Mentana, che sembra essere stato colpito da non so cosa, ma una folgorazione della bestemmia, che a un certo punto sulla sua pagina ufficiale di Facebook ha cominciato praticamente ad ammazzare le bestemmie. Chi fa commenti stupidi, sciocchi, qualunquisti o commenti diciamo che un po' fuori luogo. Ha visto anche qualcuno che conosciamo noi che ci ha provato a essere bestemmiato da vent'anni. Esatto, però è stato ignorato. Però insomma ha cominciato ad ammazzarli di bestemmie, tanto da far sorgere l'idea a qualcuno di aprire una pagina apposita che si chiama Enrico Mentana Blasta la gente su Facebook, dove raccolgono queste cose. Ovviamente la cosa si è autoalimentata, per cui c'è gente che va lì per farsi blastare, e quindi c'è un aumento esponenziale di blaste. Cioè di Mentana che praticamente la dice. Quindi c'è gente che lo provoca apposta per essere blastato. Qualcuno sì, ma la cosa brutta è che la maggior parte è gente che in realtà pensa di dire cose serie, e quella è la cosa brutta. Ma questo oggi è un problema, penso, generale. Non so negli Stati Uniti quanto sia così, ma insomma abbiamo capito che c'è oggi Trump. La gente, c'è Trump, giusto? Addirittura candidato alla presidenza. C'è Trump. Insomma. Andiamo avanti. Ma guarda, Trump sì, è un'anomalia, devo dire la verità. Ma come un'anomalia la Clinton. Io infatti mi chiedevo, ma come cacchio avete fatto a candidare questa che potrebbe far nonna papera? Ma probabilmente politicamente, intellettualmente, una che ce la sa, cioè probabilmente è anche molto meglio lei del suo marito, ex presidente. Però è impresentabile per certi versi. Cioè io la voterei per non votare Trump, che è quello che stanno facendo tutti i democratici, fanno così, però è praticamente dicendo, ma non avete trovato nessun altro che si potesse presentare meglio? Ma io penso che in questo momento c'è veramente una forte crisi politica a livello globale, cioè, questo non è solo negli Stati Uniti, in Italia, penso che c'è veramente una forte crisi politica lì in senso generale, ma proprio a livello dei contenuti, oramai la gente non vuole neanche più il contenuto. La gente vuole vuole essere blastata. Cioè questo, la gente che blasta, che biastima, che vuole il Salvini di turno, capito? Cioè, e infatti questa cosa si rispecchia anche in altri paesi come gli Stati Uniti, ovviamente in maniera più esponenziale che da noi comunque la dimensione poi è riportata. Cioè, se ci fosse un Trump in Italia che vince, tipo non so, un miliardario che si fa i cazzi su Berlusconi. Sì, c'è successo. Però vedi, è tutta un'altra cosa. Infatti Trump l'ha detto, io ho preso ispirazione perché quello l'ha fatto, lo faccio pure io, insomma. Certo, che sono l'ultimo dei coglioni. Vabbè, andiamo al sangue del tapiro. Allora, io questa volta ho raccolto una storia nell'etere, Ma perché parli così? Una storia una leggenda che vorrebbe che, avete presente gli iPhone 7, quelli nuovi, quelli che non c'hanno il jack, no? Il famoso jack. Oh, jack, c'è presente il jack? Jack lo squartatore. Jack lo squartatore, non ce l'hanno. Sono senza jack. Ebbene, sappiate che c'è una leggenda che dice che in realtà il jack ci sta. Ci sta. Ma è nascosto. Ma è nascosto perché sti fili della mignotta dell'Apple. Gomblotto. Gomblottano e te l'hanno chiuso. E allora c'è sta un modo che, perché se tu prendi un trapano e lo trapano nel punto giusto, ritiri fuori il jack. Lo sapevi? Pizzi, tu lo sapevi? Non lo sapeva. Pizzi, lo sapevi? No, scusa, stavo leggendo. Stavi facendo cazzi tua, certo. No, lo sapevo. L'avevo... Hai provato a trapanare il tuo iPhone 7? No, però stavo aspettando che lo faceva Alex. Alex, tu c'hai l'iPhone 7? No, però l'ho tenuto. Te lo compri mano. Apposta? Lo porta per quello, esatto. Questa è una notizia fatta, non lo sa nessuno, a parte quelle migliaia, sì, centinaia, migliaia, centinaia, non lo so, migliaia anche, diverse persone che ci hanno provato davvero. Questo perché un sito, quello che dicevamo prima, che oramai la gente, esatto, c'è un sito, dovete sapere, che si chiama un sito, scusate, un canale YouTube che si chiama TechRex, dove ci sono dei ragazzi che sono dei geni, sono dei geni, ma non ho capito se sono straricchi oppure se sono dei ladri, perché potrebbero anche essere dei ladri. Sono straricchi, ma facendo milioni di visualizzazioni ogni video, anche se non erano straricchi, lo sono diventati dopo. Lo sono diventati, gli passano le cose. Però all'inizio in qualche modo devono aver cominciato. No, comunque, perché? Milioni di visualizzazioni su un video significa soldi. Aspetta questa cosa. Perché questi tizi qui hanno. Andiamo a vedere i numeri, perché comunque ci interessa sapere anche ci sono più di 5 milioni di iscritti, e hanno messo, loro mettono praticamente sul loro canale degli esperimenti che fanno con i Samsung e con con i telefonini, con gli iPhone, per par condicio, quindi, che ne so, li congelano nella come Coca-Cola, democratici, no, li congelano nella Coca-Cola, li trapano, li buttano di sotto dentro al frullatore, nei microonde, sulla lava, insomma fanno le peggio cose, quindi spendono migliaia e migliaia di dollari che in qualche modo probabilmente li vengono risarciti attraverso nuovi telefoni dalla Samsung e dall'Apple, perché è tutta pubblicità, sì, probabilmente sì. Per dire, l'ultimo loro video, che è praticamente farsi un bagno nella Coca-Cola, anzi una piscina riempita da 1500 galloni di Coca-Cola, ha fatto qualcosa, ha fatto qualcosa come 44 milioni di visualizzazioni in 3 mesi. 44 milioni di visualizzazioni. Guarda, ti dico, un video che abbiamo messo io e Salvezza sul tubo, 100.000 visualizzazioni, ci ha portato 2 euro perché non eravamo affiliati, ma soprattutto non era costante. Cioè, il problema è del fatto che YouTube indicizza la e comunque se tu fai X però, video vabbè, al giorno. Però a me non interessa parlare di questo. No, perché... no, aspetta, è importante invece, perché fatti solo la proporzione che questi hanno fatto solo sto video. E hanno fatto 44 visualizzazioni. Sono contento per loro. Sono contento per loro. Sono bravi, sono simpatici, quello che a cazzo le pare. Ma la cosa è che loro, per scherzo, hanno messo questo video in cui trapanavano un iPhone 7 per dire, ragazzi, se era uno scherzo, certo, qui se ci fatto il trapano, il jack esce fuori. E la gente ci ha creduto. Questo è il problema. Ci ha creduto. Il problema e anche di internet di oggi, che bisognerebbe mettere la patente, secondo me. Esatto, esatto. Perché poi ovviamente hanno preso il loro bel dispositivo nuovo, lo hanno trapanato distruggendo e annullando completamente la garanzia, e hanno perso migliaia di dollari in totale. Quindi dei geni del male. Anche se secondo me, con una bella class action, questi insomma si arrischiano, perché comunque ok che è una trollata, però è vero, secondo me no, mi hai dato l'informazione. Alex, tu che ne pensi? Poi lo chiediamo anche alla moglie. Allora, io ovviamente ho visto, sapevo di questa cosa qua e sapevo, cioè ripeto, e quando l'ho sentito ho cominciato a ridere, perché devo dire la verità, io sono un grande cultore del darwinismo, nel senso, invece dei cari amici americani che non credono nell'evoluzione, cioè secondo me queste persone, appunto, se uno butta via centinaia di euro per fare un buco in un telefono e sperando che da questo ci esca la cosa, io credo che tutte queste segnalazioni siano state fatte un po', come si dice, per fare hype, perché non credo che molti ci abbiano creduto. Cioè, me lo auguro che non ci abbiano creduto. Ma perché... secondo me, no, magari non tutti quelli che dicono che ci hanno creduto, ma secondo me è una buona percentuale. Ci ha avuto più di 10 milioni di visualizzazioni. Dai. Quindi, anche se solo lo 0,5% esatto, ci ha creduto, un sacco di persone. Esatto, quindi ci sono buone possibilità che qualche migliaio lo abbia fatto. Sì. Beh, comunque, viva Darwin. No, ma sono d'accordo pure con Darwin. Viva Darwin, cioè nel senso è l'evoluzione della specie. Anzi, viva la figa e poi viva Darwin. Viva la figa di Darwin. Viva la figa di Darwin. Poi Darwin sicuramente c'era qualcosa da dire anche sull'evoluzione della figa. Ma anche quella è l'evoluzione. Va bene, e andiamo a ridateci il tempo perduto. Che bisogna fare il film di che devi parlare? No, perché sì, l'hai visto tu il film? Visto tutto. C'è un allarme di Wikipedia gigantesco. Cari lettori, saremo diretti. Oggi siamo qui per chiedere 10 euro e vaffanculo. Allora, okay. Uno, due, tre. Allora, a parte Wikipedia, ci hai rotto i coglioni perché ogni anno. Poi se me lo viene a chiedere Wikipedia, quello originale, quello no originale, quello international, British, international. Quello, esatto, quello internazionale, ti dico vabbè pure, ma visto il considerato le polemiche sulla conduzione di Wikipedia Italia, che ovviamente non poteva essere che condotto insomma da persone che alla fine creano discussioni su come lo conducono, con la senza di chi e come, perché non lo so, però voglio dire, ne so tante, so anche che ci sono anche molte azioni legali in corso, quindi Wikipedia, ti attacchi al cazzo e io i miei 10 euro all'anno per sostenerti a te in Italia, lo possono pure chiudere, tra l'altro il Wikipedia italiano è assolutamente inutile perché il 50% delle cose non ci stanno, o se ci stanno sono tre righe. Sono parziali, vabbè, ma sono un po' ma all'italiano non servono troppe nozioni, servono infatti, piccole basi, esatto, tipo da cui voluto, partire. Anna per Coluto è una figura retorica. Da Anna e Coluto, esatto. Comunque, per ridarci il tempo perduto che abbiamo perso, esatto, perché anche adesso sto perdendo tempo. Sì, ma pure io. Io per voi, per risparmiarvi il tempo perduto, perché a me non lo daranno nessuno, ma io in qualche modo ve lo rendo, ho visto un film che si chiama The Fifth Wave, la quinta onda. Tradotta para. Bella traduzione. Beh, ho scoperto dopo che in realtà è tratto da una trilogia di romanzi. E questo è un male. Perché tutti e tre i romanzi sono concentrati in un film. No, perché tutti e tre i romanzi finiscono con una cliffhanger. Quindi questo film purtroppo finisce con un cliffhanger che io non vi toglierò mai. Ma anche se escono gli altri due film, che credo non faranno mai. Ma se mai li dovessero fare, non li vedrò mai. Esatto. Di che cosa parla The Fifth Wave? The Fifth Wave parla appunto di una invasione. Cioè, pure vede quest'anno sto film. Del 2000, sì, è vero. Parla di una razza aliena che viene a conquistare la Terra. Ah, beh, sempre temi originali. È originalissimo. L'assalto è visto dal punto di vista di una ragazzina, di una adolescente, una teenager americana, ovviamente, perché che abbiamo... è Chloe Grace Moretz, che è un gran pezzo di fica. Esatto, l'ho trovata gradevole. È visto dal suo punto di vista di una famigliola di madre, padre, lei e il fratello, lei sarebbe la figlia, che si vive tutte le ondate dell'attacco, di quelle 5 ondate. La prima ondata, se tu sei un alieno, che cosa fai? Vedi la tecnologia terrestre e lanci un bel impulso elettromagnetico e blocchi la tecnologia, giusto? Non lo so. Lo fai, insomma, cioè, tu sei un alieno. Io penso che c'è dall'alto. C'è una nave gigantesca, una sola, e vai sugli Stati Uniti. Normale. Sempre. O Giappone o Stati Uniti. E lanci un'onda elettromagnetica che azzera completamente l'energia e comunque tutti quanti i sistemi elettronici. E vabbè, lo fai perché ovviamente la prima cosa che fai è distruggere quello che puoi distruggere con il minimo sforzo. E va bene. Seconda ondata, gli tsunami. Cioè, come fa lo tsunami? Lo tsunami, praticamente, onde gigantesche che spazzano tutte quante le coste del mondo. Non è dato saperlo. C'è solo il tsunami, non rompe le palle. Tsunami. È un dato di fatto. Io ti lancio come lo capitan tsunami. Tsunami. Che tsunami. Ti lancio lo tsunami. Sono arrivato il tsunami. Io pure domani lo tsunami. Ricordatevo tsunami. Okay. Ok. Adesso devo vedere la terza ondata, che non, cioè, è talmente che non me la ricordo manco più. Per cui immagino che schifo. Guarda. Allora, la terza ondata, praticamente. Sono le bestemmie, credo, una cosa del genere, che sono quelle. Lanciano un'ondata delle bestemmie. Che sono quelle. No, quelle che ho tirato. Che funzionano, no, allora, sono praticamente il virus. C'è sempre un virus. Gombrotto. Allora, prendono l'insieme questi rimangono. Avevano andate, cioè, perché mano a mano che sfottiscono rimangono meno umani. Quindi prendono il virus N1H1, quello della viaria, fondamentalmente. Lo modificano in modo da diventare ancora più letale. E sterminare. Cioè, se modo lo inventava uno da zero. No, perché fa tutta sta fatica? No. L'N1H1. Quarta ondata, Alla quarta ondata si scopre che praticamente in mezzo agli esseri umani ci sono degli esseri umani che hanno il corpo di esseri umani, ma sono parassitati dall'alieno. Capito? Cosa nuova? Sono sempre loro, però. O cioè? Altri alieni? No, sono sempre gli stessi alieni, okay, che prendono le però sembianze. Loro non lo sapevano. Perché è tutto un complotto, c'è tutto il complotto. C'è l'anticomplotto. C'è l'anticomplotto. C'è la quinta colonna. Allora, praticamente che succede? Che prendono tutti i ragazzini che trovano e li addestrano. Gli dicono: guarda, ci stanno gli alieni che prendono gli esseri umani, ci mettono l'alieno dentro la capoccia, che è tipo, cioè, la forma di un ragno, e li fanno vedere con dei visori speciali su bambini catturati. Bellissimo. E gli addestrano per ucciderli, gli danno questi visori che gli fanno vedere se hanno o meno un alieno gli umani, in modo da identificarli. Allora gli alieni addestrano questi bambini per uccidere gli altri alieni. Non ho capito un cazzo, non si capisce. Gli Stati Uniti addestrano, perché questo è negli Stati Uniti, adesso il mondo non si sa, è tutto azzerato. Ma se è gli Stati Uniti è il mondo, tu. È il mondo, il mondo che è rimasto, che è americano ovviamente, americano, che non può essere altrimenti. A destra i bambini, i genitori in qualche modo spariscono, qui lo fanno vedere. Vabbè, che non stanno a fare troppe sottigliezze, stanno a sterminare, quindi, E li addestrano, e loro praticamente creano dei visori per vedere dentro, tipo una specie di raggio X, per vedere dentro la testa se c'è un ragno, se c'è un ragno gli alieni vanno a ammazzare. E li addestrano, quindi ai ragazzini anche dei 10 anni. Ragazzini, cioè, vuol dire, potrebbe essere chiunque. Ragazzi, non c'è un motivo. C'è un motivo che ti spiego dopo. Perché fanno più soldi finco di bambini. Esatto, perché questa è una teen opera, fondamentalmente. Io l'ho scoperto dopo, gesto d'ombrello col cazzo che mo vedevo. Questo film, che succede? Che questa bambina, questa ragazza, non bambina, il padre dice: vada a tuo fratello, poi muore. La bambina? No, lui il padre. La ragazza, questa vada a tuo fratello, perché io adesso devo morire. Fa un po' schiatto. Non lo sapeva, ma schiatta. Ma solo sentiva perché? Perché stavano salendo sull'autobus dell'esercito degli Stati Uniti per essere portati al sicuro. E il fratello rompi coglioni, dice: ah, mi sono perso l'orso di merda. Vabbè, a prendere l'orso di merda. Che sta male. No, la bambina, perché la sorella, perché sono rimasto solo. Il padre nel frattempo stava già schiattando. Morto, stava per schiattare. Vabbè, ma falla corta. Aspetta, no, questo è bellissimo. Quindi gli è stato appena affidato. Lei scende per prendere l'orso, ritorna e l'autobus è partito. Quindi si è perso il ragazzino dopo 5 minuti. Ok, una comitata in faccia, ragazzino, esatto, perfetto. Quindi lei rimane da sola. Rimane da sola, vaga nel bosco. A un certo punto gli sparano. Chi? Gli sparano. E dopodiché si sveglia in una baita con il classico ragazzo figaccione che se l'è trombata. No, che gli salva la vita. Poi dopo l'aiuta. Ma in realtà è lui a sparare. E lui dice: ma io devo andare a prendere. Albert. Dove sta la forte del cazzo? Perché devo andare a forte del forte cazzo? Perché devo riprendere mio fratellino piccolo. Vabbè, ti aiuto io. Vedo che non riesco a fermarti, ti aiuto io. E quindi vanno a recuperare il fratello. Tanto Alex se ne sta andando. Ma forte cazzo. No, ma in realtà stavo pensando che voglio anch'io il tempo perduto, perché non mi sto proprio entusiasmando con questa recensione. Però vai avanti. Non è, io ti sto raccontando, ma ce lo stai rubando anche a noi il tempo perduto. Ma molto di meno, fidatevi, perché poi dovete capire, perché poi magari viene la curiosità. Allora l'accompagna e praticamente lei scopre alla fine che questo ragazzo è un alieno, quindi ha il ragno dentro la capoccia, e lui praticamente gli dice: io, perché una sera stavo per ammazzarti, perché ci sono tanti cecchini, quindi cicchini. Lui ha sparato, vedi? No, stavo per ammazzarti, poi ho visto che così ti sei spaventata che hai visto un gufo, e quel momento ho capito, aperta la parentesi, si vede lui praticamente, cioè non lo fanno vedere, ma si intende così, che lui ha il fucile in mano, sta mirando la ragazza e pensa: la mia specie siamo ragni, lei è fregna. Ragno o fregna? Ragno o fregna? Fregna. E quindi lui decide di aiutare la fregna. Quindi questo. La fregna non è fregna. No, ma perché lui sta dentro un corpo umano. Sta dentro un corpo umano. E quindi è meglio la fragna. La fragna. E quindi dice: sai che c'è? Ma perché devo aiutare i regni, i ragni? Aiuta la fragna. Giusto. Oh, e quindi questo è un altro di quei film che ci fa capire, insomma, che la fregna vince sul mare. Soprattutto quando è fregna da ragno. Esatto. Poi alla fine si scopre che questi ragazzini invece erano, sì, addestrati dall'esercito degli Stati Uniti, ma in realtà questo esercito degli Stati Uniti erano tutti agenti dormienti degli alieni, con i ragni in testa. Praticamente che facevano? Questi visori. Un filmone. Guarda che originalità, muove la chicca da tweet. Plot twist o il tit plost, come della fragna. Il tit plost, che praticamente questo visore che faceva vedere i ragni negli, nella... era l'Oculus Rift, era tipo l'Oculus Rift, ma in realtà faceva vedere i ragni, quindi gli alieni, nelle persone normali. Quindi funzionava al contrario, capito? Cioè, non veramente si sa come, però, un plot twist incredibile, non ci avevo mai creso, non me lo sarei mai creso, una cosa incredibile. Infatti, infatti. E come, quindi, qual è il cliffhanger? Perché a questo punto raccontiamo. Il cliffhanger, perché lei da sola e l'alieno, il ragazzo alieno, che nel frattempo ci hanno fatto, ci hanno anche dato quei due minuti in cui si faceva il bagno tutti con i muscoli, ovviamente, che lei che non si sa se si stava a fare bagno nel fiume o in quello che si cerniva lei. Comunque, qualche cosa, lui si stava facendo il bagno. E fanno vedere questa scena in cui lei, oh mio Dio, quanto è carino, va bene, cioè, non ce lo devono far vedere. Vanno qui in Fort Cazzo, da sola riesce, e un altro ragazzo che nel frattempo aveva scoperto l'inghippo, torna indietro a recuperare il fratello da solo, faccio tutto da solo, così riescono a liberare il fratello. Però nel frattempo gli altri ragazzini e il colonnello che gestiva la base scappano. È finito il film. Perché scappa? Perché stanno, fanno scoppiare. Lui, l'alieno, l'aiuta mettendo bombe ovunque e facendo scoppiare tutto. Che dice: da come sai prese le bombe? Non sono domande a cui è dato rispondere. Come un tsunami, da dove hai preso lo tsunami? Tu l'hai visto in italiano o in inglese? Sto via. Non me lo ricordo più. Penso in inglese. Quindi è un film del 2016, 112 minuti. Sì, sì, cioè 111 minuti di troppo, direi. Addirittura sonoro a colori. Sonoro e a colori. Che cazzo di definizione? Ma vediamo scritto qua. Vedi su Wikipedia italiano, perché ci sono le note. Vedi le note, perché ci sono nel Wikipedia, no, sono basta, bellissime. Basta, sì. A me, gli incassi, voglio vedere solo gli incassi. The Maze Runner e l'altro qual era? E Divergent, cioè sì, li confondo tutti, sono tutti uguali sti robi qui. Ma è una trilogia fatta apposta, praticamente è costata 38 milioni di dollari e ne ha cassato 101. Però insomma, tutto sommato, vabbè, ma sti film potrebbero farne un altro, pensate. No, no, ma sti film funzionano, cioè. Sì, no. Su My Movies la media è 1.87 su 5, quindi vabbè, ma in realtà questo è un film che fa schifo alla critica, ma al pubblico medio americano teenager, redneck, perché è troppo colto questo film. Redneck e teenager, anzi teenager e redneck, gli piace. C'è la fegna, c'è il figo, c'è tutto, è ragno, allora, ragno. Se tu hai qualche tempo perduto, c'è più di questo. Più di questo. No, no, il mio tempo perduto è, stavo registrando un podcast e poi il mio compagno di podcast mi vuole dire e raccontare il film The Fifth Wave, la quinta onda, e adesso vi racconto il tempo perduto che mi ha fatto perdere. Allora, c'è sta fregna che ci sta gli alieni e no, basta, cioè basta, no, è terribile, basta, sì, sì. Basta, cioè. Ma però tornerò col prossimo episodio, anch'io ho diversi tempi perduti, cioè, ma proprio volutamente. E vabbè, allora a questo punto, Marco, andiamo alla conclusione. Sì, perché c'è, non so se l'angolo della supposta c'è qualche cosa, oppure ce ne fotte, diciamo, delle prossime volte. Non mi pare che ci sia. Ci sono arrivate giusto recensioni negative su iTunes per Morti di Trono di Spade, ma non avete capito che quello era uno spin-off interno. Non l'avete capito? Interno, che proprio. No, allora, diciamola sta cosa. Allora, è vero, e secondo me il pubblico c'ha ragione. Perché noi abbiamo iniziato a fare un programma in un modo, poi improvvisamente è diventato un altro. La gente che si divertiva a sentire Morti e Bestemmie, che ha detto una spada, non gliene frega un cazzo, si è un po' incazzata. Quindi avete ragione, ma noi non ce ne frega un cazzo. Però cioè, non problema. Si è incazzata per MDB Summer Radio. No, è vero. Però è diverso. Quello è stato compreso, di più. Cioè, lui ma anche secondo me che se ne sono già andati tutti dopo il Trono di Spade, qui non è rimasto nessuno. Quelli che sono rimasti erano contenti. Oh, certo. Che bello, questo perché è qualcosa tu di sempre nuovo. Che quelli che sopravvivono gli sta bene qualsiasi cosa, cioè esatto. Nel senso, cioè, poi ci insegna anche il quinta onda, chi sopravvive pure la fregna, esatto. Ragna gli sta bene, Vabbè, però ti è arrivata una lettera d'amore. Eh sì, andiamo con c'è l'angolo nella posta dell'amore di Marco. Esatto, che nell'angolo della posta, che è l'angolo della posta, c'è l'angolo della posta dell'amore di Marco. Quindi vai. Della supposta. C'è la sigla, non so se Alex farà mai una sigla su questa cosa. Mi inventerò qualcosa. Ah, l'angolo dell'amore. Sì. Esatto. Ah. Allora, è arrivato un messaggio da Tania. Una mail, non un messaggio. Una mail da Tania. Una mail è una cosa. Una mail da Tania. Questo è un po' pignolo di merda. È l'angolo messaggio, del posto dell'amore. Mail, tramite mail. Messaggio tramite mail da Tania. L'oggetto è L'amore unisce i cuori. C'è già il titolo di questo mettiamo oggetto. Mettiamo l'apposita musicazione a questo momento. La basetta. Sì, molto romantico, mi piace. Allora, vado alle teste a leggere. Ciao. Punto. E fin qui. Internet e il modo moderno di incontri tra uomini e donne. Ok? Io già per... c'avrei da dire, però sì. Insomma, va bene. Io per la prima volta nella vita a cercare dating online. I russi, gli uomini di tutto, manca un senso di rispetto per le donne. Cioè i meno. Gli uomini di tutto, però. I russi, gli uomini di tutto. Capisci? I russi, gli uomini di tutto, manca il senso di rispetto per le donne, significa che comunque le picchiano. I russi le picchiano. Sì, cerchiamo così. Sono venuta in un internet cafe, e già questo, già l'essere venuto in un internet cafe, cioè, devo capire cosa. Per scrivere una lettera e di trovare un uomo vero. Certo, perché a te poi l'ha scritto. No, perché fino allora a trovare finti, ovviamente. No, gli menavano. No, in internet vai a trovare vero, cioè virtuale, però massimo. Ecco cosa posso dire su di te. Su di te. Punto. Quindi c'ha qualcosa da dire su di te. Che sono un uomo vero. Sei un uomo vero, esatto. Perché ne sa? In effetti, fino a che non gli rispondo, ma poi lo decidiamo se gli rispondo o meno, non posso saperlo. Giusto. Ok. Il mio nome è Curtis. E qui, francamente, qui. Francamente, qui ho sceso un brivido. Perché, scusa, Tania, perché Curtis? Questo è nome, dai. Potrebbe essere un uomo, magari gli è sfuggito. Quindi in realtà lui vuole dire che i russi non hanno rispetto per i gay, fondamentalmente. E questo lo sappiamo. Ma forse stava digitando il compositore automatico. Ha scritto Tania e è uscito Curtis. È chiaro. Probabile. Io vivo nella Federazione Russa. E questo? E questo non va male. La mia età è di 30 anni. E sto bene. Beh, meno male. Sono contento. Sei malata, non c'ha il virus. Ma la solitudine è difficile per me. Non so, è una brutta cosa. Soprattutto se ti chiami di Curtis e te vesti da donna, insomma. Cioè, cosa succede? In Russia poi non è parlato. Rischio proprio. Nel tempo libero non mi piace stare a casa. Ok, io preferisco di attività ricreative, ciclismo, andare a teatro e del cinema. Il ciclismo mi piace. Il ciclismo, vedi? Mi piace la bicicletta, bravo. Cioè, può essere così, mi piace correre, fare punti. C'è la Formula 1, così. Il ciclismo. Atletica leggera, vai. Ma perché? Vabbè. Nelle seguenti lettere. Beh, no, aspetta, è statistico. No, il ciclismo è lo sport più praticato in Italia, eh? Ah, è vero, non il calcio, il ciclismo. Perché lo fanno tutti, è più facile, non ci si fa mai troppo male. Vabbè. Comunque, nelle seguenti lettere, se continuiamo la nostra conoscenza, e qui dobbiamo deciderlo. Dobbiamo deciderlo. Saremo imparare di più gli uni degli altri. Giusto. Condividere le foto personali. Due parentesi chiuse. Ah, mandate le foto. Ancora no, però ci sono due parentesi chiuse. Che significa? Non lo so, e sono le facce che ride. Che non lo so. Comunque, riusciremo anche a vedere in futuro. Quindi è cieca. Riusciremo un giorno a vedere. No, pensa che anche tu sei cieco, però. Può essere che siamo due ciechi. Che cazzo scrive? Infatti, cioè, forse è detta, ecco perché c'è il problema. Lei è detta, ha detto Tania, è uscito Curtis. Non vedo l'ora della tua lettera, credo sei cieca. Perché non voglio essere sola. In attesa di vostra lettera, mi. Punto. Bello, bello. Tatiana. Tatiana. Ah, cambiato un'altra volta nome. Tatiana Curtis. Capisci, ecco, che quindi Curtis è il cognome. No, lo so, cioè, non c'è scritto, ho pensato io che sia il cognome. Però che dici? Che faccio? Gli rispondo? Sì, non lo so. Io risponderei e manderei subito la foto prima di tutto, perché noi vogliamo vedere la foto di Tatiana. Vabbè, vediamo se mi risponde. Tatiana, ok. O Curtis. Però sempre con Google Traduttore. Certo. Ok, e dici che pure tu fai ciclismo. Che faccio ciclismo? Faccio bicicletta. Vabbè, grazie Tania, vabbè. Ti risponderemo. Poi vedremo se ci arrivano altre lettere. Insomma, noi siamo sempre pronti. Va bene, a questo punto c'è il sondaggio, ma facciamo finta di niente, insomma. Libero sondaggio, la prossima volta, non dai. Diciamo, ma secondo me faremo uno spin-off di Morti e Bestemmie solo questo. Sui liberi sondaggi. La rassegnata stampa, le cose che noi dobbiamo fare questa volta. Abbiamo fatta. Quindi a questo punto. Bentornati dunque a questa seconda stagione. Salutiamo tutti gli ascoltatori di Runtime Radio. Ricordatevi che trovate Morti di Bestemmie su iTunes, addirittura, pensate che roba. Su iTunes trovate sul feed, lo trovate su Runtime Radio, lo trovate, insomma, lo avete sempre trovato, ma soprattutto su Facebook cercate la pagina Morti di Bestemmie, fate mi piace, contribuite, scriveteci e fateci tante belle recensioni. Quindi io a questo punto ringrazio Marco Jack Daniels. Thank you very much. Ringrazio Alex e Jack Daniels. Sono io che ringrazio Daniels, voi. E grazie appunto di questo fantastico racconto. Poi ci farai una Summer Radio on the Road Speak and Way and Country Boys e Fucking Time, anche perché l'altro giorno tra l'altro abbiamo iniziato a vedere Luke Cage, dove ci sono le fantastiche canzoni tipo Fuck a Mada Way Way, che insomma bisogna sempre è bellissimo. E quindi da me Simone Jack Daniels, ci vediamo al prossimo episodio sia di Summer Radio che della versione tradizionale di Morti di Bestemmie, e vedrete che anche quest'anno avremo bellissimi temi, ma soprattutto torneranno anche gli ospiti che insomma avete imparato ad apprezzare. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao, ciao. Summer Radio. This podcast has been produced with Bald Cleaner.